Mancano meno di 2 settimane alle elezioni politiche del 25 settembre e la rete italiana Pace e Disarmo presenta una propria analisi di quelle che sono le politiche che stanno generando la situazione che tutti conosciamo e avanza anche delle proposte. Una sorta, potremmo definirlo, di programma elettorale pacifista. Noi siamo al telefono con Sergio Bassoli, coordinatore esecutivo della rete italiana Pace e Disarmo, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto, come nasce e perché questo documento? Questo documento è prodotto di una riflessione che abbiamo fatto all'interno della rete, dove ci siamo posti la domanda del come interagire, come partecipare a questa fase preelettorale per le prossime elezioni, in un momento in cui ci sembra che uno dei temi centrali che si dovrebbe affrontare nel dibattito politico nel nostro paese sia che società vogliamo per il futuro prossimo, come riusciamo a risolvere la questione delle guerre, non la guerra ma delle guerre, come pensiamo di trasformare l'Europa da quella che è, diciamo, in alcuni casi un po' una tecnocrazia o in ogni caso un progetto politico non completato, in un'Europa che sia in grado di promuovere diritti, democrazia ma soprattutto pace. Invece abbiamo visto che il dibattito politico è schiacciato sul presente, schiacciato sulla ricerca del consenso e di conseguenza questi temi, soprattutto il tema della pace e di come contrastare e prevenire le guerre in modo non violento e utilizzando gli strumenti del diritto internazionale, non vengono affrontati in quanto possono essere temi divisivi che anche all'interno dei rispettivi schieramenti possono far perdere consenso piuttosto che aumentare il consenso. Per cui abbiamo pensato a un documento che è composto da 2 parti, uno che cerca di rendere evidente e dare una consapevolezza all'opinione pubblica, ma anche a chi si candida a essere parte del Parlamento, quindi a rappresentare gli interessi della popolazione, della cittadinanza italiana, ma anche chi avrà le responsabilità di governare, mettere di fronte la posta in palio, quindi avere anche una visione e soprattutto una responsabilità che le scelte di oggi diventeranno scelte che condizioneranno il futuro. C'è una frase nella premessa che scrivete che mi ha colpito, perché dite: la quasi unanimità degli schieramenti politici, a differenza della popolazione italiana che auspica la pace e desidera rafforzare le opportunità per raggiungerla, sembra ritenere possa esistere una sola politica, come se fosse possibile governare un paese come l'Italia con il pilota automatico. Quindi insomma il problema è che proprio c'è una cultura forse della guerra? Sì, infatti la frase spero che si comprenda, cioè voi l'avete compresa bene, quello che noi abbiamo visto, no, in questi più di 200 giorni di guerra è che chi ha posto dubbi o ha chiesto un'alternativa allo scenario di guerra e a rispondere alla guerra, cioè all'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, cosa che appunto noi abbiamo condannato fin dal primo giorno, ma la risposta dell'Occidente a partire dagli Stati Uniti, che chiaramente hanno un ruolo molto importante, ma per quello che a noi ci interessa in questa analisi, all'Unione Europea, agli Stati membri dell'Unione Europea, vi è stata all'unanimità uno schierarsi a favore della risposta armata, quindi alla difesa armata dell'Ucraina, quando il rischio, soprattutto il rischio, è quella di una escalation, mentre noi chiedevamo una de-escalation, è stata messa in campo una escalation militare che può portarci, come ha detto il segretario generale delle Nazioni Unite, a entrare dentro una guerra nucleare, una guerra nucleare che chiaramente ce n'è per tutti, quindi sarebbe, diciamo così, la fine della nostra esperienza sia in termini di Occidente ma forse anche in termini di umanità. Questa è la visione dominante, che non è possibile che di fronte a un'emergenza dove occorre dare delle risposte a una casa che brucia, anziché spegnere l'incendio si soffia sul fuoco. Rispondere con la guerra e con il riarmo, cioè l'aumento della spesa militare, sostenere l'Ucraina con quelli che sono i morti in Ucraina, la distruzione di un paese, ma soprattutto andare contro una potenza militare come la Russia, che va condannata, intendiamoci, usando la stessa strategia follia, cioè quella della guerra, secondo noi è una follia. Vorrei anche contestualizzare in quello che scrivono oggi i giornali, eccetera. Parla appunto della vittoria sul campo nelle ultime 48 ore dell'Ucraina con i russi in ritirata. Si parla poco e questo aumenta ancora di più il rischio che l'orso ferito o il tiranno che gli vengono a crollare una serie di certezze possa fare l'atto finale, possa creare un incidente di carattere nucleare, per non dire utilizzare anche quelle che chiamano le armi nucleari di bassa intensità o a basso raggio, che insomma sono in ogni caso armi di distruzione di massa. Quindi su questi scenari secondo noi la politica italiana avrebbe dovuto lavorare di più a livello europeo per far sì che l'Europa non sia parte del conflitto, ma possa giocare quel ruolo che purtroppo abbiamo delegato a un altro dittatore, cioè a Erdogan, no, alla Turchia, cioè a Erdogan, mentre invece noi ci siamo schierati, e schierarsi vuol dire non poter più agire per operare per fermare la guerra, ma soprattutto lavorare per trovare una soluzione sulla base del diritto, una soluzione politica che riconosca chiaramente i diritti dell'Ucraina, ci mancherebbe, ma che riesca appunto a fermare quello che è una guerra con tutto ciò che consegue, cioè le morti, le distruzioni, le sofferenze, gli stupri, le violenze, le fosse comuni. Ecco, veniamo allora alla seconda parte del vostro documento, perché appunto uno può immaginare che non ci siano altre soluzioni rispetto a quelle che stiamo vedendo, invece voi spiegate anche come sia possibile una politica diversa. Sono diversi i punti che toccate, quali sono? Ma innanzitutto secondo noi occorre avere una politica estera diversa. La politica estera deve far leva su un ruolo importante e un ruolo decisivo delle Nazioni Unite, dare un ruolo all'Assemblea delle Nazioni Unite, sostenere la riforma democratica del sistema delle Nazioni Unite, quindi il fatto che siamo ancora fermi al veto dei 5 membri permanenti, in questo caso la Russia ha ereditato il seggio permanente nel Consiglio di Sicurezza che era dell'Unione Sovietica, di fatto pone in stallo, congela le decisioni del Consiglio di Sicurezza. Va ridato invece un ruolo maggiore all'Assemblea delle Nazioni Unite, che siano tutti gli Stati membri, gli Stati civili, che sono appunto membri di diritto pieno, debbono agire all'unisono per prevenire, ma anche per gestire i conflitti tra gli Stati sulla base del diritto internazionale. In questo non vediamo un'azione forte, per esempio, né dell'Italia e né degli Stati membri dell'Unione Europea, come pure occorre in politica estera essere coerenti con i nostri principi, i nostri valori. Se noi rifiutiamo la guerra, perché l'Italia non ratifica il trattato di proibizione delle armi nucleari? Sappiamo quanto il nucleare sia un pericolo per tutta l'umanità, con molta fatica è stato approvato il trattato già un anno fa e l'Italia chiediamo che ratifichi quel trattato, perché anche questo è un segnale forte, importante, come noi abbiamo bisogno che l'Italia sia sempre più considerato un partner per la pace, per esempio nella regione del Mediterraneo. Se l'Italia invece è un paese che non ha una politica estera, ma è schierato dentro un blocco militare e non ha una sua autonomia nelle decisioni, tanto nel passare in varie crisi nei confronti dell'area del Medio Oriente, anche questo ci rende deboli, ma soprattutto non siamo in grado di dare un contributo per fermare le guerre che ci stanno ormai circondando su tutta l'area, tutto il bacino del Mediterraneo. Non siamo in grado di riconoscere per esempio lo Stato di Palestina. La nostra diplomazia è schierata da anni sulla posizione dei due Stati per i due popoli, ma lo Stato israeliano lo riconosciamo e giustamente va riconosciuto, ma non riconosciamo l'altro Stato, cioè lo Stato di Palestina. Una cosa che fate anche, che è molto interessante, è smontare il tabù che la difesa debba essere solo armata. E infatti voi chiedete da un lato un disarmo e dall'altro una difesa che sia non armata e non violenta, quindi è possibile farla. A partire dal 2014 abbiamo avviato un percorso che ci ha portato a una raccolta di firme, una proposta di legge popolare, più di 50.000 firme raccolte, è una proposta di legge che è stata poi assunta da un gruppo di parlamentari di diverse forze politiche rappresentate in Parlamento, una proposta di legge che ferma appunto in Parlamento e che prevede appunto la costituzione finalmente del Dipartimento di Difesa Civile e non violenta, che sarebbe proprio anche un completare lo spirito della Costituzione, dove si parla di difesa della patria, ma si parla di difesa della patria, non difesa armata, ma di difesa della patria a tutto tondo. Cioè la difesa della patria è anche il lavoro che fa la protezione civile, è il lavoro che svolgono e l'impegno del servizio civile universale, è l'impegno dei corpi civili di pace, è studiare e analizzare il percorso di riconversione dell'industria militare in industria civile sostenibile. Questo non è solo possibile, ma è indispensabile, è anche un dovere che ha lo Stato nel permettere al cittadino, ai cittadini di difendere in modo non violento la propria patria, dove la difesa non è vista solo in funzione di un fantomatico nemico che ci aggredisce, ma la difesa è anche mettere in sicurezza le scuole, difendere il territorio e quindi preservare il territorio e renderlo sicuro per la collettività. Dobbiamo uscire da uno schema di ragionamento, uno schema culturale, dove ci deve essere un pensiero unico, cioè ci deve essere il pensiero che alla guerra si risponde con la guerra e che gli investimenti debbono produrre dei profitti, dei benefici immediati, quando invece sappiamo che la prevenzione e la cura del territorio, la difesa di un paese ha bisogno di investimenti e di uno sguardo sul lungo periodo. E allora io ricordo a chi ci ascolta che se vuole leggere il documento integrale lo trova sul sito retepacedisarmo.org. Grazie mille Sergio e buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata.